Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, grazie per la vostra accoglienza, molto, molto benigna, speriamo anche dopo. E iniziamo con una preghiera, e vi leggo una preghiera allo Spirito. O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, discendi a noi benigno e l'intimo dei cuori. Voce e mente si accordino nel ritmo della lode, il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola. O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino e unico, fonte di eterno amore. Amen. Allora, cosa ci raccontiamo? Una breve riflessione. Abbiamo ascoltato ieri Fra Massimiliano e tante volte abbiamo ascoltato catechesi che ci hanno riportato alla nostra vocazione come cristiani, come familiari di Betania, in particolare come oblati. Ma quello che oggi vorrei proporvi come riflessione è guardarci un po' dentro per vedere effettivamente quali e quante difficoltà possiamo incontrare nell'essere ciò che vogliamo essere. Condividiamo quello che ci viene detto, condividiamo le nostre preghiere, i nostri momenti di incontro con Gesù, ma poi nella quotidianità abbiamo le nostre difficoltà, almeno io sicuramente. Allora rifletto con voi, così ad alta voce, e proviamo a vedere se c'è un modo collettivo, individuale, di trovare la strada per sentirci più uniti a Gesù, perché nel momento che ci allontaniamo siamo preda delle nostre passioni e quindi del peccato. Partiamo dallo statuto, un breve cenno, quindi prima la radice della nostra vocazione e poi approfondiremo. Dice la seconda medaglia, articolo 66, comma 1, la seconda modalità di appartenenza è costituita dall'oblato esterno. Si tratta del battezzato che, pur non vivendo entro le mura della fraternità, è legato ad essa spiritualmente. Quindi c'è un legame. Non è indispensabile la presenza costante, impegnandosi a portare là dove Dio lo ha seminato il suo messaggio d'amore. Egli compie un cammino di perfezione nella carità secondo la spiritualità dell'istituto. E ieri Massimiliano, nella presentazione anche dell'organizzazione che sta crescendo intorno agli oblati, questo ci richiama proprio al fatto di essere chiamati ad impegnarci dove il Signore ci vuole, ma non dimenticare che le nostre radici, la nostra vocazione nasce qui, nella fraternità francescana di Betania. Gesù infatti si rivolge a noi individualmente e comunitariamente nella sua Chiesa. C'è uno spazio e un tempo, qui e ora, sempre. Allora, vi faccio partecipare di due brani del Vangelo per entrare in questo pensiero che mi sono particolarmente cari. Ce ne sono molti che si possono adattare, ma questo mi ha fatto sempre riflettere. Matteo 22, 1-14, quando Gesù dice: il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Invitò i nobili del regno, non si presentarono, anzi uccisero i messaggeri, e il re a sua volta uccise i nobili. Poi continua. Poi disse ai suoi servi: il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava l'abito nuziale, gli disse: amico, hai potuto entrare qui senza abito nuziale? ed egli ammutolì. Questa cosa qui mi ha sempre mandato fuori di testa. Cioè, ammutolì, forse sapeva. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Lì sarà pianto a stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Questa una parte mi entusiasma questo brano, ma dall'altra parte mi intimidisce un po'. Il Signore chiama tutti alla sua festa per essere partecipe della sua gioia, ma per far parte del banchetto. Per far parte del banchetto di Dio occorre aderire all'invito con fiducia nel suo bene e con responsabilità. L'invito non è occasionale, può sembrare, ma non è occasionale, non è generico, è rivolto a tutti, ma allo stesso tempo interpella ognuno personalmente. Non siamo un ripiego perché gli altri hanno detto di no. I poveri accorsi al pranzo del re potevano essere sfamati anche agli angoli delle strade, lì dove erano stati trovati. Oggi potremmo dire nelle mense Caritas, una stazione ferroviaria, in qualunque luogo dove li possiamo incontrare. Invece il Signore ci chiama, ci invita e ci accoglie nella sua casa, nella sua chiesa, con tutta la dignità di ospiti, desiderati e amati come figli. Come figli suoi. Spetta a noi presentarci spogli dei vecchi abiti e vestiti con l'abito della festa. Il nostro nuovo abito deve mostrare chiaramente che vogliamo essere testimoni di Gesù al servizio dello Spirito. È una missione di responsabilità che dobbiamo sentire nel cuore. Il secondo brano che mi investe in maniera più secolare, più precisa, è Giovanni 21, 15, 17. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti amo. Gli disse: pasci i miei agnelli. Poi gli disse di nuovo: Simone di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti amo. E ancora, gli disse per la terza volta: Simone di Giovanni, mi ami? Pietro rimase addolorato per la terza volta, che la terza volta gli dicesse: mi ami? E gli disse: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo. Gesù gli rispose: pasci le mie pecorelle. Quando Gesù risorto appare agli apostoli in questa occasione e mangiano sulla spiaggia il pesce che hanno pescato, li trova impauriti. Erano ritornati sfiduciati un po', si erano sentiti un po' abbandonati ed erano ritornati alla loro attività. Ma il suo saluto non sono parole di rimprovero, ma di riconciliazione e di perdono. Pace a voi, esordisce. Mangia con loro, li raduna intorno a sé da comunità riconciliata e perdonata. Poi li costituisce come chiesa, la sua chiesa, pronti alla missione, ricchi del suo spirito. Come il Padre ha mandato me, io mando voi. Manda tutti e ognuno. E Pietro con una particolare missione. Anche noi, quindi, nell'accogliere la chiamata del Signore, ereditiamo la stessa missione. Siamo pure noi chiamati a testimoniare nello Spirito Santo. Ma mi chiedo, possiamo riuscirci? È possibile, anche quando, come in questi ultimi anni, viviamo una condizione di grande incertezza, condizionati da paure di pandemie, guerre e quanto altro. Quando sembra che tutto ci porti e ci spinga a pensare solo a noi stessi? Quando pensiamo che la colpa è solo di tutti e degli altri e che tanto è tutto inutile? Quando ci sfiduciamo anche noi un po' come gli apostoli. Allora, quando ci sembra che tutto viene meno, Dove troviamo la forza per rialimentare la speranza? E allora qui il Santo Padre, capo della Chiesa, ci viene incontro e ci dà tre consigli. In una sua omelia di Pentecoste, cito, abita il presente, ci invita ad abitare il presente, contro la tentazione di farci paralizzare dalle amarezze e dalle nostalgie del passato, oppure di concentrarci sulle incertezze del domani e lasciarci ossessionare dai timori per l'avvenire, meditiamo che non c'è tempo migliore per noi. Adesso, lì dove siamo, è il momento unico e irripetibile per fare del bene, per fare della vita un dono. Non c'è bisogno di pensare sempre al domani. Il momento unico e irripetibile è adesso, ora. Da questo momento, ogni istante, sempre nella nostra vita, è il momento giusto per fare del bene. Disporci a questo è realizzare un dialogo costante e un incontro personale con Gesù e Eucaristia. Dove prendere la speranza? La nostra preghiera allora si veste di umanità e riconosciamo Gesù nell'incontro con l'altro che si fa prossimo. Primo carisma di Betania, la preghiera. La nostra preghiera allora prende la forma e la carne delle persone che incontriamo. Pregare non è un rito magico, non è parlare all'aria, è parlare con Gesù persona. E Gesù persona lo incontriamo negli altri. Secondo consiglio che ci dà il Papa, cercare l'insieme. Dice l'insieme non la parte, lo spirito non plasma degli individui chiusi, ma ci fonda come Chiesa nella multiforme varietà dei carismi, in una unità che non è mai uniformità. Non dobbiamo essere tutti uguali, anzi, siamo ricchi proprio perché differenti. Siamo differenti, ma nel ricevere lo Spirito non diamo il primato al nostro personale punto di vista, ma impariamo a guardare il mondo non con uno sguardo mondano, ma con uno spirituale. C'è un cambio di prospettiva. Quando si incontra Gesù, quando incontriamo lo Spirito, dobbiamo e possiamo guardare il mondo con occhi diversi, con uno sguardo spirituale. Quindi dobbiamo far tesoro del passato, ma per arricchirci d'esperienza, ma dobbiamo vivere il presente impegnandoci per costruire un futuro di bene. La vita fraterna, altro carisma di Betania, come luogo privilegiato dove imparare a incontrare Gesù insieme. Non siamo differenti nell'incontro, siamo differenti nel portare ognuno i propri talenti, le proprie capacità individuali. E il terzo, ma non ultimo, metti Dio prima del tuo io. È il passo decisivo della vita spirituale, dice il Santo Padre, che non è una collezione di meriti e di opere nostre, ma umile accoglienza di Dio. Solo se ci svuotiamo di noi stessi, lasciamo spazio al Signore. Solo se ci affidiamo a Lui, ritroviamo noi stessi. Solo da poveri in spirito diventiamo ricchi di Spirito Santo. Vale anche per la Chiesa. Non salviamo nessuno e nemmeno noi stessi solo con le nostre forze. Bene. Sgombrare il cuore quindi dal mio ego per far spazio e accogliere prima di tutto lo Spirito del Signore. Per lasciarmi accogliere e accogliere gli altri nella mia vita. Se non mi lascio accogliere, come posso essere capace di accogliere a mia volta? Terzo, carisma di Betania. Ok, abbiamo visto quindi una piccola panoramica su il perché, le radici della vocazione. È tutto condivisibile, dicevo all'inizio, ma il punto è: siamo davvero consapevoli degli ostacoli che si frappongono tra le nostre convinzioni e i nostri buoni propositi per vivere una vita nello stile dei carismi della Fraternità Francescana di Betania, qui dove siamo stati chiamati? Abbiamo visto innanzitutto che il Signore ci fa ci ha interpellati in una comunità, e una comunità è composta da individui, quindi ai nomi e ai volti di tutti coloro che la compongono. Ma ci interpella anche singolarmente. Allora voglio interpretare la vocazione, e ce lo ricordava ieri anche Fra Massimiliano, come volontaria, consapevole e operosa accettazione della sua parola. E scoprire che non sono solo per me è una grande gioia. Non siamo soli. C'è Gesù, ma non siamo soli. Più che me, ho fiducia in una parola che tornerà a Lui solo dopo aver operato ciò per cui l'ha mandata. Allora, visto tutto questo, questa riflessione mi voglio soffermare solo sull'aspetto individuale. Sarà forse un altro il tempo per un'analisi di una vocazione condivisa. Quello che mi lascia riflettere in particolare è: Gesù ripete una domanda a Pietro per 3 volte. Ora, pensiamo forse che Gesù stia chiedendo a Pietro se gli vuole veramente bene più degli altri? Gesù avrebbe fatto una domanda così banale? O forse sta chiedendo a Pietro se sa cosa significa amare? Così, quando Gesù in Betania mi ha chiesto: Nicola, mi ami tu? Dice: sì, proprio tu. Cosa mi ha chiesto? Una conferma del mio volergli bene? O mi ha chiesto di interrogarmi cosa vuol dire per me amare e se lui è l'oggetto del mio amore? Dice: mi vuoi bene tu, proprio tu. Allora vorrei accompagnarmi con voi e lasciarci accompagnare da 3 poeti, ho preso 3 poesie laiche, assolutamente laiche. Usciamo un po' dall'ambito strettamente teologico e possiamo verificare che è nella nostra natura, in noi stessi, ci sono tracce profonde del bene del Signore. Non dobbiamo cercare troppo lontano. Il primo ci porta a riflettere su alcuni aspetti, anzi alcuni difetti, su quei atteggiamenti che spesso mostriamo nella nostra quotidianità. Se ricordate un po' da reminiscenze scolastiche, vediamo Dante che in un momento particolare della sua vita temeva per la sua vita, prega e chiede al Signore di mandargli incontro un aiuto. Lui cercava di uscire dalla sua condizione di sofferenza, ma non vi riusciva. Cosa glielo impediva? Se ricordate, proprio i suoi difetti. 3 belve, il poeta lei medesima le interpreta, le raffigura come 3 belve, ma si parla ovviamente dell'orgoglio, della vanità, della supponenza. E quindi in il primo canto leggiamo: quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, ombra o uomo certo. Lui nella sua disperazione chiede aiuto, il Signore glielo manda e dice: ma io, vedi la bestia per cui mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremare le vene e i polsi. È la classica condizione in cui, quando ci troviamo in profondo disagio, in grande difficoltà, qualunque aiuto va bene. Chiunque tu sia, qui addirittura il poeta dice: se tu sei un fantasma, se sei un uomo, qualunque cosa tu sia, aiutami. Ecco, quindi accettiamo qualunque condizione. E Virgilio in questo caso lo accompagna su un nuovo cammino per dire: così potrai vivere la tua conversione. Ma quando si trova, se ricordate, alle porte dell'inferno, Dante si tira indietro e dice: ma io perché venirvi e chi lo concede? Io non sono Enea, non sono Paolo, né degno di fare questo? Nessuno lo crederebbe. Si nasconde dietro la sua paura. Virgilio lo comprende bene e dice: infatti, l'anima tua è di viltate offesa, cioè solo paura la tua. Sei partito, ti sei sentito un po' più rasserenato perché ti faccio compagnia, ma poi di fronte all'impegno. Ecco, questo comportamento ci è familiare. Nel momento del bisogno, quando siamo pressi dal bisogno, siamo disposti ad accettare qualunque aiuto pur di uscire dalla nostra condizione di sofferenza. Così come ci è familiare anche la risposta negativa del poeta all'invito che il suo Salvatore gli fa per incontrare la luce. Infatti, dopo essersi sentito confortato dalla presenza di Virgilio, è meno disposto a seguirlo su quel cammino che gli viene indicato. Anche lui nasconde le sue paure dietro una falsa umiltà. Io non sono degno, non ce la posso fare. Si sbaglia perché crede di dover fare affidamento solo sulle sue forze. Noi abbiamo chiesto aiuto. E sempre noi vogliamo poi che l'aiuto risponda a nostre specifiche condizioni. Abbiamo paura del fallimento. Dimentichiamo che non siamo soli e che la nostra vita può non dipendere da un nostro personale progetto. Le nostre paure sono alimentate proprio dai nostri difetti, vanità, orgoglio, superbia, chi più ne ha più ne metta, aspetti del nostro carattere che crediamo essere la nostra forza, mentre sono proprio la nostra debolezza. Una volta accolta la chiamata del Signore di fronte alle difficoltà, ci spaventiamo e ci giustifichiamo. Vorrei ma non posso, vedi anche tu che non è possibile, non ho tempo. Frasi che ogni tanto, confesso, ho pronunciato anch'io. Prima ci illudiamo di essere autosufficienti, di bastare a noi stessi, e poi cerchiamo alibi per sfuggire alle nostre personali responsabilità. Basterebbe poco. Basterebbe solo accettare con fiducia che siamo solo bisognosi dell'amorevole aiuto del Signore. Affidarci un pochino. Adesso mi risulta un po' più chiaro quando il Papa dice: metti Dio al posto dell'io. Bene, secondo poeta, quindi abbiamo visto come ci ha portati su un aspetto della nostra riflessione Dante, era un poeta credente. Passiamo invece a un poeta alla ricerca della sua fede, non era convinto ancora. E in una poesia, ne cito alcune strofe, dice qualcosa di molto... Dice, io per me, una scelta nettamente personale, amo le strade che riescono agli erbosi fossi, dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla. In questa poesia presenta, in questa frase, i ricordi dell'infanzia, ricordi belli, gioiosi, sereni. E i sensi di quell'odore che non sa staccarsi da terra e piove in petto una dolcezza inquieta, qui delle divertite passioni per miracolo tace la guerra. Qui tocca anche a noi, poveri, la nostra parte di ricchezza ed è l'odore dei limoni. Riporta alla mente immagini della sua infanzia e facendolo si sente una pace nel petto. Tace la guerra delle passioni. Ma da adulto. Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose, dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. La pioggia stanca la terra, di poi. S'afforta il tedio dell'inverno sulle case. La luce si fa avara, amara l'anima. Poi ci lasciamo prendere dalla quotidianità. Dispiaceri, rivalse. Quando un giorno da un macchiuso portone tra gli alberi di una corte ci si mostrano il giallo dei limoni e il gelo del cuore si sfà e il petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità. È una, forse un inno alla speranza, ma mi piace quando inizia con io per me. Qui si evidenzia che la scelta è personale, fortemente individuale, perché indaga nel suo profondo alla ricerca della bellezza della vita che in fondo al suo cuore, i ricordi dell'infanzia. Quella bellezza, immagine del bene, che il Signore ha donato a tutti fin dalla nascita, da sempre, ce l'abbiamo tutti. Per lui è questo tipo di ricordi, ognuno avrà i suoi, avrà il suo modo di cercare la bellezza che è nel suo cuore. Per il poeta sono i ricordi dell'infanzia, con i loro profumi, tanto che per un momento tacciano le passioni e le guerre che agitano la sua vita. Allora tutto sembra possibile, eh? È il momento delle buone intenzioni e questo può valere anche per noi, quando ci sentiamo bene, ci sentiamo forti, mettiamo davanti i progetti, le buone intenzioni. Ma poi anche noi, ecco, che riaffiora l'ego e forti del nostro orgoglio, credendoci autosufficienti, cosa facciamo? Proviamo a realizzarci secondo i nostri desideri, il nostro egoismo. Viene avanti il nostro io. Così anch'io, ai primi insuccessi, do spazio alla mia delusione. Mi lascio catturare dalla tristezza, oppure cerco una ragione a giustificazione del mio risentimento per attese tradite, promesse non mantenute, torti subiti. Chi mi ha deluso? Chi mi ha ferito? Un amico, un familiare di Betania, un consacrato? Chi? Ma se continuo a leggere la realtà con uno sguardo mondano, non spirituale, pieno di me, se continuo a nascondermi dietro la mia diffidenza, o peggio, la mia indifferenza, anche se avessi tutte le ragioni del mondo dalla mia parte, inevitabilmente mi ritroverei stanco, prostrato e svuotato di ogni energia. Le delusioni ci abbattono, non ci saltano. La pioggia stanca la terra, dice il poeta. Sa forte il tedio dell'inverno sulle case, la luce si fa amara l'anima. E allora anch'io sarò come terra stancata dalla pioggia, se mi lascio prendere e vincere dalle mie passioni. E mi perderò nella luce, nella pochissima luce della mia amareggiata anima. La pioggia, le sofferenze, tutto quello che ci capita nella vita, è sempre uguale, è sempre pioggia. Quello che ci accade, ci accadrebbe comunque. Se piove su un terreno fertile, però, lo alimenta e i frutti sono una ricchezza per tutti. Ma se cade su un'anima inarridita e sfiduciata, che non vuole alzare lo sguardo, ho ragione io, chiusi nel proprio ego, allora non porterà frutto, ma solo altra amarezza. Pensateci, la pioggia è sempre pioggia. Le nostre vite non sono migliori o peggiori di quelle che sono, ma è come noi la riceviamo questa pioggia, su che terreno la facciamo cadere. Il cristiano, e questo è l'invito di Montale, il cristiano è una persona che supera le apparenze, che sa scavare per andare oltre la superficie delle cose, che sa trovare tra le pieghe della propria storia i segni che lo riportano alle radici della propria ricchezza interiore, quella che il Signore ci ha donato da sempre e che è lì, che ci aspetta. Allora, anche se il bene è difficile da individuare, non è facile. Quando un giorno, da un malchiuso portone, tra gli alberi di una corte ci si mostrano i gialli dei limoni. Lui passeggia e vede un portone mal chiuso, attenzione, non spalancato. Il bene non gli va incontro, è lui che lo cerca, ma riesce a individuarlo in quello spazio piccolo di un portone mal chiuso, ritrova quel giallo dei limoni di una corte che lo riportano alla sua infanzia, al bene che conservava nel suo cuore. Allora, anche se il bene è difficile da individuare, nascosto da un malchiuso portone, alzando lo sguardo Se siamo alla ricerca, possiamo ritrovarlo e spegnere la guerra tra le passioni che accendono il nostro spirito. Ritrovare, appunto, la speranza per continuare il cammino. Dobbiamo fare appello a quello che abbiamo dentro di noi. Non aspettare che arriva tutto dall'esterno. Anzi, dall'esterno arriva la pioggia, ma noi abbiamo una bellezza interiore che nasce con noi e ci appartiene, è nostra. E arriviamo al terzo poeta. Diremmo il peggiore di tutti, ateo, completamente ateo, rivoluzionario, che scrive una poesia per la donna amata, quindi una poesia d'amore. E ci aiuta a entrare più in profondità su quella domanda di Gesù: mi ami tu? Il poeta dice: se tu mi dimentichi, se a poco cessi di amarmi, cesserò d'amarti a poco, se d'improvviso mi dimentichi, non cercarmi, che ti avrò già dimenticato. Ma se ogni giorno, ogni ora, senti che a me sei destinata, con dolcezza implacabile, se ogni giorno sale alle tue labbra un fiore a cercarmi, in me tutto quel fuoco si ripete, in me nulla si spegne. Il mio amore si nutre del tuo amore, amata. E finché tu vivrai, starà tra le tue braccia, senza uscire dalle mie. Allora cosa vuol dire amare se non mettere il nostro amore, la nostra vita, tra le braccia della persona amata, senza paura? Il nostro amore, tutto noi stessi, affidiamo nelle sue braccia, nonostante che la nostra vita non lascerà le nostre braccia. Ebbene, Gesù non ha detto in Matteo 16, 24, 25, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Amare quindi è uscire da se stessi, affidarsi all'altro, mettere tra le braccia dell'altro se stessi e tutto il proprio amore. Attenzione, la poesia non è, quando dice se mi dimentichi ti avrò già dimenticato, non è una rivalsa, non è un dote d'essere, non è una condizione, è molto di più. Se d'improvviso mi dimentichi, dice il poeta, non cercarmi che già ti avrò dimenticata. Non pone una condizione. Se ti dimentichi di me è perché io te ne ho dato un motivo. Se tu, che mi ami, ti dimentichi di me, evidentemente io non sono più nell'orizzonte della tua vita, sono già uscito. È colpa mia. Non è un capriccio. Io mi lascio dimenticare perché sono assente nella tua vita. Quando manca di reciprocità, inevitabilmente il nostro sentimento si inaridisce. Anche se l'amore pensiamo sia incondizionato, ma ognuno lo trattiene per sé, non è vero dono di sé, anche se fosse un sentimento vero, genuino, comunque può smarrirsi se uno dei due si dimentica dell'altro. Anzi, proprio la dimenticanza li renderà distanti. I due sentimenti troveranno strade diverse e si spegneranno. Ma se il mio cuore è veramente, il mio amore, il mio cuore è veramente fuori di me, se io sono dono per lei, per la persona amata, come posso dimenticarmi di lei? Se io non sono più in me stesso, ma sono tra le braccia dell'altra persona, come faccio a dimenticarmi di lei? E questo è un poeta ateo. Non conosceva Gesù, come noi. Eppure dice questo. Allora, se ci innamoriamo di Gesù, Se siamo innamorati di Gesù, possiamo dimenticarci di Lui? Gesù è fedele. Partiamo da qui. Gesù è fedele, non si dimentica di noi, ma ci ha lasciati liberi di scegliere. Se noi ci dimentichiamo di Lui, è come se ci allontanassimo da Lui e siamo facile preda delle tentazioni e cadiamo nel peccato. Noi spesso pensiamo che ci allontaniamo da Gesù, il fatto di peccare ci allontani da Dio, ma è vero anche il contrario. Pecchiamo perché ci siamo allontanati da Dio. Diventiamo deboli quando ci allontaniamo. Allora comprendiamo un po' meglio la risposta di Pietro. Pietro si addolora quando dice, ci riflette un attimo e dice, Signore, sai, tu sai tutto, sai che ti amo. Notiamo anche che Pietro non dice sì, dice, tu sai tutto, sai che ti amo. Ci ha pensato. Pietro si addolora perché sa che Gesù sa che lui ha messo la sua vita tra le sue braccia, ma comprende pure che deve dare una risposta. Gesù già sa tutto. Che bisogno aveva di porre questa domanda? Ma Pietro capisce, sa che deve dare comunque una risposta. Deve dichiararsi apertamente per assumersi la sua responsabilità. La risposta serve più a Pietro che a Gesù. Anche noi, domani lo ripeterete, anche noi ci dichiariamo apertamente con una promessa di vita evangelica. Anche noi ci assumiamo la nostra responsabilità. Gesù già conosce il nostro cuore, ma ha bisogno, noi ne abbiamo bisogno più noi che Lui, di dover dichiarare che lo amiamo. Serve più a noi. Allora anche la nostra risposta deve essere una risposta da innamorati. Mettere la nostra vita tra le sue braccia, affidarci a Lui con fiducia, perché se sono tra le sue braccia non posso dimenticarmi di Lui. E il mio amore si nutrirà del suo amore. La vera forza è del Signore, è Lui che mi sostiene e mi incoraggia. L'ha detto un poeta che era ateo, a maggior ragione possiamo farlo noi. Bene. Arriviamo alle conclusioni. Ora, possiamo pensare su questo, riflettiamo insieme. Se siamo capaci di innamorarci e di condividere la nostra vita, tutto di noi, con un'altra persona come noi, se siamo capaci di grandi sacrifici a volte per persone a noi care, rinunce, insomma, non penso che debba io ricordarvi come. Allora, se siamo capaci di donarci per coloro che amiamo, e nonostante questo, viviamo la condizione che possiamo allontanarci di tanto in tanto e possiamo essere vittime inconsapevoli delle nostre passioni, possiamo sbagliare anche nei confronti delle persone che amiamo e purtroppo ce ne accorgiamo dopo. Dunque, se siamo capaci di tutto questo, a maggior ragione, possiamo innamorarci di chi ci ha dato tutto se stesso e lo ha fatto con un amore profondissimo, che si è incarnato per noi e per noi è morto, per la nostra salvezza. Quale prova d'amore più grande? Possiamo allora affidarci con tutto il nostro amore, ma in pratica significa apposta, appunto, ciò vuol dire appunto ascoltare la sua parola, impegnarci a mettere in pratica i suoi insegnamenti, prendere a modello per le nostre famiglie la famiglia di Nazareth, sentirci uniti in un'unica Chiesa, amata, perdonata e riconciliata prima di tutto tra noi. Sempre. Questo soprattutto nei momenti difficili, quando la vita ci mette alla prova. Sì, proprio in quei momenti dobbiamo fare ancor più affidamento su di Lui e avere il coraggio di essere ciò che siamo, senza paura, senza fughe. Vogliamo essere oblati della Fraternità Francescana di Betania, allora viviamo secondo i carismi della Fraternità, la preghiera, l'accoglienza, la vita fraterna. Per ritornare a ieri, la logica dell'amorevolezza e non del sospetto. Bene, io potrei fermarmi qui. Però mi è un po' difficile. Io uso un sistema per non dimenticarmi di Gesù. Lo faccio tutte le sere e tutte le mattine. Potete provare anche voi, o se già lo fate, o se non avete un sistema, inventatevene uno. La sera, prima di andare a letto, e la mattina, prima di alzarmi, lo ringrazio. Dico grazie, Signore, per tutto. Tutto quel che sono, quello che mi hai dato. Tutto. E nel dire questo mi ritorna alla mente una canzone che ho ascoltato qui a Betania. Dice: hai disteso le tue braccia anche per me, Gesù. Dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me. Cerco ancora il mio peccato, ma non c'è. Ha disteso quelle braccia su quella croce per tutti, ma anche per me, proprio per me. E allora gli dico grazie. Voglio impegnarmi, voglio dare la mia risposta, perché Gesù me lo chiede tutti i giorni. E ce lo chiede tutti i giorni, lo chiede a tutti. Ci chiede sempre: mi ami tu? Lode e gloria al Signore Gesù. Amen.